Europa 24. Thought for all the victims that we've seen in Istanbul for a terrible terrorist attack the other day. All our solidarity goes to the Turkish people, the Turkish authorities, as well as the terrible strike to the church in Cairo. All our solidarity goes also to our Egyptian friends. Solidarietà dunque dall'Europa per gli attentati del fine settimana in Turchia ed Egitto, ad esprimerla l'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini. Un saluto da Anna Migliorati, una settimana importante, quella che si apre oggi per l'Europa. Giovedì ci sarà l'ultimo consiglio di questo 2016, che di fatto chiuderà anche l'esperienza della presidenza slovacca. A gennaio si riparterà con la guida di Malta. Ma intanto, oggi, come ha detto il commissario Mogherini, è il giorno dell'Africa. Today we will have an Africa day. Un'Africa Day, il Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei in corso a Bruxelles per aggiornare la partnership con l'Africa, che è strategicamente importante non solo per l'immigrazione ma anche per lo sviluppo e la sicurezza. Il prossimo anno si terrà infatti il secondo vertice tra Unione Europea e Africa a seguito di quello della Valletta del 2015. E nei fatti concreti un passo avanti c'è, perché l'Unione Europea ha firmato col Mali il primo dei cosiddetti compact con i paesi africani per facilitare il ritorno dei migranti le cui richieste d'asilo in Europa sono state respinte. È il primo degli accordi il cui obiettivo è frenare l'immigrazione affrontando le cause nei paesi di origine e transito. La partnership con Mali, che aprirà la strada a tutte le altre, implica l'impegno europeo per rafforzare le capacità dei servizi di sicurezza del paese, ma anche accordi per l'identificazione dei migranti irregolari con l'assistenza di funzionari del Mali in Europa e la fornitura di documenti per il rientro in patria. Prevede anche una serie di iniziative per favorire il lavoro giovanile nel paese d'origine. Europa che ha deciso anche di prolungare le sue missioni in Somalia fino al 31 dicembre 2018. È la missione civile per l'assistenza del settore della sicurezza marittima e la missione militare che ha il compito di contribuire al rafforzamento delle capacità delle forze armate somale. Era già stata prolungata, lo ricordiamo, sempre fino alla fine del 2018, anche la missione navale contro la pirateria. Accordi non solo con l'Africa, questa mattina firmata l'intesa per il dialogo politico e la cooperazione che riapre il rapporto di partnership tra Unione Europea e Cuba, un accordo che dà deroga alla posizione stabilita dall'Unione Europea nel 96, che in pratica subordinava la cooperazione di ciascun paese membro con l'isola ai cambiamenti politici ed economici. Insomma, in sostanza, da oggi porte aperte per i singoli paesi, ognuno farà come meglio crede con Cuba, tra Unione Europea e l'isola è porta che si riapre, come già avvenuto con gli Stati Uniti. Ma dicevamo, settimana importante che vedrà il vertice di giovedì, cui farà tra l'altro il suo debutto con ogni probabilità Gentiloni come premier. Se c'è un nome italiano che a Bruxelles conoscono bene è quello di Paolo Gentiloni. Per i dossier scottanti che il nostro paese sta gestendo quindi in Europa c'è la sicurezza della continuità. Il premier incaricato, già ministro degli esteri, non sarà il Consiglio Affari Esteri di oggi, ma farà il suo debutto come premier giovedì, all'ultimo Consiglio Europeo del 2016. Al centro dell'incontro il dossier immigrazione, con la questione della riforma del diritto d'asilo. La presidenza slovacca ha presentato un documento che prevede una solidarietà flessibile, verso il quale l'Italia ha confermato la sostanziale contrarietà. Il nostro paese infatti punta a rinviare qualsiasi decisione affinché il dossier passi con il nuovo anno alla presidenza maltese, paese che per ovvie ragioni, anche geografiche, ha una posizione più vicina a quella italiana. Gli altri dossier sul tavolo di Bruxelles che Gentiloni dovrà gestire riguardano il veto italiano sulla revisione del bilancio europeo pluriennale e la politica commerciale di Roma. Gentiloni si dovrà occupare anche delle sanzioni alla Russia e della discussione sull'equilibrio nelle cariche istituzionali europee dopo l'addio di Martin Schulz. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E un saluto anche da Anna Migliorati. Per il momento ci fermiamo qui. Europa come sempre che vi aspetta questa sera alle 21. Ad Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.